Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Oggi andremo a Catania, proprio così, dove c'è il lutto cittadino e dove la città insieme al sindaco si interroga su quanto avviene ogni giorno, su quello che inevitabilmente viene vissuto come un dovere, quello di soccorrere, e a volte però un dovere consumato in solitudine, perché sono tantissimi quelli che attaccano come buonismo o come atti assolutamente volti a danneggiare il resto della società italiana questa possibilità, questa volontà di aiutare i migranti. C'è anche chi, come una delegazione di 12 avvocati, giuristi e medici britannici, invece si toglie tanto di cappello di fronte all'esempio di Catania e dice: è un grande esempio della pietà e della solidarietà umana, è un esempio che commuove, questo monumento funebre che ricorda la strage di migranti del Mediterraneo nella città siciliana e che fa da tomba a 17 morti senza nome. È un monumento che è stato voluto dal sindaco di Catania Enzo Bianco all'interno del cimitero. Ci sono naturalmente diverse attività d'accoglienza messe in campo da questa città, ma ci sono anche tanti altri che in giro per l'Italia hanno cominciato a prendere alla lettera l'invito portateveli a casa vostra e si sono portati letteralmente dei profughi, dei richiedenti asilo a pranzo il giorno di Ferragosto e non solo. Alcuni altri ne ospitano, come un professore di storia che in questi giorni si è guadagnato i titoli dei giornali, ne ospitano addirittura sei a casa loro. Lui perché si è guadagnato i titoli dei giornali? Non tanto per quello che fa, ma perché è riempito di insulti da parte di chi lo accusa di volere speculare, di volere guadagnare addirittura sulle tragedie degli altri. Affronteremo questi temi nel corso di Spunti di Vista. Dalle 8:30 potete naturalmente partecipare anche voi, e con noi ci sarà anche se sarà difficile naturalmente il collegamento con i satellitari, ma ci sarà il comandante Massimo Tozzi, che è il comandante del pattugliatore Cigala Fulgosi, che è stato al centro di uno dei salvataggi e delle opere di salvataggio più penose di questi giorni, che ha portato a ritrovare soffocati nella stiva di un barcone 49 morti, e poi i superstiti, 312 persone sono state accompagnate sulle coste siciliane. Parleremo con lui e sentiremo quella che è la sua esperienza quotidiana, la sua testimonianza che viene dal mare. Ci sposteremo poi a Genova e anche a Roma nel corso della nostra trasmissione per parlare di denti, proprio così, perché il dentista è una delle prime cure, delle prime esigenze sanitarie che è saltata sotto la pressione della crisi. Secondo i dati dell'Istat, le visite degli italiani dal dentista sono diminuite del 30% nel periodo che va dal 2005 al 2013. Sono stati presi in esame proprio questi 8 anni. Soprattutto gli interventi che si considerano meno urgenti sono stati per molte famiglie completamente cancellati, e chiaramente si riflette poco su quella che può essere una semplice carie, ma che può portare a conseguenze sulla salute decisamente pesanti. E partiremo proprio da delle testimonianze di questa gravità di una carie, diciamo così, di un'otturazione che si è deciso di saltare per motivi economici, e poi ha avuto delle conseguenze che hanno portato, in un caso di cui parleremo anche dopo, a un ascesso cerebrale, al corpo bloccato da una semiparesi. Sono molti i lati legati al trascurare le cure dentistiche, perché a volte non avere un incisivo, essendo i denti una parte esposta come la pelle, può certificare anche la tua discriminazione per un colloquio di lavoro. È un vuoto che non si può nascondere, quello dell'incisivo o del dente, e rende difficile le cose ordinarie della vita quotidiana. Portare i figli a scuola, socializzare, mangiare. Comunque, questa è la parte del sistema sanitario pubblico più trascurata. Era stato pensato il sistema sanitario come universale, uguale per tutti, però l'odontoiatria pubblica copre solo il 5% di quello che si spende per i denti in Italia. Il resto, 95%, e lo sappiamo bene tutti, è a carico dei privati. E voi avete dovuto affrontare le conseguenze della crisi, avete dovuto rinunciare a beni che prima consideravate essenziali. Raccontateci anche la vostra storia qui a Spunti di Vista. Ora noi andiamo alla rubrica che ci accompagna sempre a conoscere coloro che sono portatori di due culture, visti da fuori. Visti da fuori. Buongiorno, buongiorno a Paolo Manzo, benvenuto. Buongiorno a tutti. E Paolo Manzo non è un corrispondente straniero che vive in Italia, è un giornalista italiano che vive all'estero. Quante lingue parli, Paolo? Ma dunque, se includiamo il piemontese ne parlo 6. Includiamolo quindi, includiamo anche allora, sì, il piemontese. È la prima lingua che ho imparato, sì, perché in famiglia, il paesino in provincia di Cuneo, quando nacque in me già oltre 45 anni fa, era la prima lingua che si imparava. Dopodiché l'italiano, parlicchio il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese e portoghese. Tu hai, sei specializzato in Latino America e hai viaggiato un po' ovunque nel mondo, non solo in quella zona. Ma dove vivi ora? No, io vivo dal 2007, inizio 2007 vivo a San Paolo in Brasile, e prima vabbè, sono stato un po' in giro dappertutto, dalla Turchia al Kurdistan, all'Afghanistan, al Ruanda, allo Sri Lanka, però poi ho scelto l'America Latina perché è un continente che frequentavo da quando a 18 anni andai in Argentina, dove all'epoca il principale ristorante di Rosario, la seconda città argentina, era gestito da compaesani, ecco, che erano andati là negli anni 50. Di Cuneo? Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. E tu oggi scrivi per Panorama, Vanity Fair, solo per citare alcune testate: L'Eco di Bergamo, Popoli Emissioni, i giornali svizzeri, il settimanale brasiliano Carta Capital, e di conseguenza osservi e fai reportage dal Brasile soprattutto, ma un po' da tutta l'America Latina per il resto del mondo. Ora, partendo da questo ristorante di Rosario, quanti sono adesso dall'Argentina? Argentina, spostiamoci al Brasile. Quanti sono gli italiani in Brasile? Esiste una comunità nutrita, sostanziosa? Assolutamente, è il secondo paese al mondo con più che ha ricevuto più immigrazione italiana dalla fine dell'Ottocento fino agli ultimi anni, perché comunque sono arrivati dal 2008 in poi tanti giovani anche dall'Italia in Brasile, nella fattispecie a San Paolo. La comunità San Paolo, la grande San Paolo, sono 20 milioni di abitanti. Se andiamo a calcolare i discendenti di italiani, circa 6 milioni hanno almeno un bisnonno italiano. Quindi insomma sono gli oriundi, sono 6 milioni solo a San Paolo, oltre 25 in tutto il Brasile. È vero, molto forte. È vero, come dicono alcuni ascoltatori di Radio 24, che non si può fare un parallelo tra l'emigrazione degli italiani, che era brava gente, usciva per lavorare, e i clandestini che oggi arrivano sulle nostre coste. Ma insomma, a portare ad emigrare nella maggior parte dei casi è sempre la necessità, quindi necessità economica, quindi questo parallelismo c'è sicuramente. All'epoca, visto anche l'oceano che c'era di mezzo e la maggiore difficoltà, probabilmente c'era un maggior controllo, ma sicuramente i casi di razzismo, penso soprattutto in questo caso agli Stati Uniti, ma per quanto riguarda il Brasile e l'Argentina soprattutto c'era il discorso della lingua, perché gli italiani erano così maggioritari in alcune comunità, ci sono paesi in Argentina che si chiamano Piemonte, Savoia, Cavour, Regina Margherita, Umberto I, in Brasile anche nel sud c'è Nuova Venezia, e quindi da una parte l'immigrazione piemontese, dall'altra parte in Brasile l'immigrazione veneta, per cui questi italiani connazionali parlavano i dialetti e la lingua italiana, per cui veniva proibito loro di parlare italiano nelle scuole. Ecco, questo fu un caso abbastanza curioso, perché i rispettivi governi sudamericani temevano proprio di perdere la sovranità linguistica. Ecco. Sì, sì, le discriminazioni sulle spalle degli italiani sono documentate da un po' tutta la storia dell'immigrazione dall'altra parte dell'oceano, poi che abbia colpito Stati Uniti, Nord America, Brasile, Argentina, le storie che si raccontano sono ancora molto molto vive. Quali sono i punti di contatto, secondo te, tra la cultura brasiliana e quella italiana? Ma sono tantissimi, perché se devo dire dei paesi sudamericani che ho vissuto anche abbastanza a lungo, quasi tutti, il Brasile è quello che ha più l'ammirazione nei confronti dell'Italia. I brasiliani adorano l'Italia. Io sono andato a vedere delle partite anche di pallavolo, ad esempio, sia in Argentina che in Brasile, e il tifo per la nazionale italiana sicuramente era molto maggiore in Brasile. Io ti parlo del sud-est e del sud del Brasile. Cioè dopo la maglia nazionale, dopo la Seleção, per esempio, loro poi ci sono gli azzurri. Spesso e volentieri l'Italia. E la cosa, se vuoi, è reciproca, perché anche noi italiani abbiamo un po' il mito del Brasile, no? Per cui in tanti gli italiani, dopo gli azzurri, dopo l'Italia, tifano Brasile. Quindi sono le due nazioni che, se vuoi, dal punto di vista così affettivo e mitologico, si assomigliano di più, nel senso che c'è proprio un'ammirazione reciproca. I brasiliani adorano, per esempio, anche se non lo conoscono assolutamente, il cibo e la cucina italiana. Loro sono convinti, ad esempio, di avere la miglior pizza al mondo, che poi è completamente diversa dalla nostra, scrocchiarella e sottile, no? San Paolo è la città che al giorno produce più pizze, idem per polpettone, per spaghetti, tagliatelle e quant'altro. Quindi questo è uno dei segni del passaggio degli italiani. Assolutamente. Abbiamo visto poi tutta un'altra cosa, e questo è assodato, infatti io poi glielo spiego. Andiamo a mangiare al ristorante brasiliano, che questo italiano in realtà non è italiano, è un brasiliano italianizzato. Ecco. Abbiamo visto poi una manifestazione massiccia contro la corruzione, contro il governo. Quando tu sei approdato in Brasile, era un po' un paese che pieno di promesse, pieno da aspettative, cioè sono state mantenute queste promesse, secondo te? Ma purtroppo no, è stata, secondo me, persa una grossa occasione, perché io sono arrivato nel 2007, appunto, il PIL per esempio nel 2010 è cresciuto di quasi il 10%, il prodotto interno lordo. Quest'anno si prevede che cali almeno del 2%, più probabilmente del 2,5%, ma al di là dei numeri economici, la grossa speranza che rappresentava il primo presidente non appartenente all'elite, no? Un ex metalmeccanico sindacalista, e che era arrivato appunto con uno slogan che era anche contro la corruzione, in effetti da quello stiamo parlando di Lula, certamente, Lula da Silva. Se guardiamo all'ultimo anno di inchieste, c'è una mani pulita moltiplicata per 100 in Brasile. Ormai dall'aprile del 2014 hanno arrestato, tra gli altri, il tesoriere del partito di Lula, di Dilma Rousseff, e l'ex braccio destro di Lula, Zé Dirceu, per tutto questo, per tangenti che, se noi guardiamo la maxi tangenti Enimo, dobbiamo moltiplicarla appunto per 100 a livello cifre spropositate, globale, inimmaginabili. Quindi insomma questo sicuramente ha inficiato molto l'immagine del Brasile e delle sue potenti multinazionali. Basti pensare a Odebrecht, l'attuale presidente è in carcere oramai da oltre un mese, ci sono fondi di investimento, penso a Carlyle, penso a quelli maggiori statunitensi, i maggiori dei paesi arabi che vogliono investire magari in Perù, hanno l'offerta di investire con Odebrecht, che è presente in Perù, e rifiutano proprio per questo per questo effetto cascata, no? Perché c'è timore che, visto che si sta indagando anche in altri paesi, non solo in Brasile, su queste tangenti, tra cui appunto il Perù che ho citato non a caso, evitano in questo momento. Quindi c'è un momento di defaianza, di crisi, che sia politica che economica, e di sfiducia, anche giudiziaria. È chiaro. Di sfiducia, sì. E voglio chiederti una cosa relativa a una problematica che attraversa il Brasile, un po' più sconosciuta, e la mette in luce molto bene un film che sta girando in questi giorni nelle sale, si intitola È arrivata mia figlia, di una regista brasiliana che ha proprio una capacità di raccontare questa problematica, e punta il dito proprio su questo problema delle classi. Cioè, si vede in questo film che la figlia di una cameriera non può nemmeno sedersi allo stesso tavolo con qualcuno che appartiene, per esempio, alla classe della borghesia dei professionisti. È un po' così, lascia perplesso. Esiste, è avvertito questo problema, questo classismo ancora in Brasile? Devo dire purtroppo sì, ed era un'altra speranza che in parte è stata modificata dal governo Lula, ma esiste, non solo esiste, ma struttura gran parte della società brasiliana ancora oggi, perché ripeto, se non ci fosse chi alla classe medio-alta tiene i bambini 24 ore su 24 dormendo nella stanza dell'empregada, no? Quindi una sorta di loculo che gli appartamenti che venivano costruiti fino a qualche anno fa riservavano, appartamenti di 150, 200, 400 metri quadrati, voglio dire, le dimensioni sono molto maggiori rispetto ai nostri, la stessa struttura sociale cadrebbe, questa classe medio-alta usa tranquillamente questa manodopera sottopagata, avendo dai 3, 4, 5 o ai 6 dipendenti che appunto gli fanno da autista, gli fanno da babà, cioè da nanni, da babysitter, no? Ma ripeto, 24 ore su 24, addirittura i presidi delle scuole hanno il problema che quando convocano i genitori mandano il 90 su 100 delle scuole private, mandano la babysitter, non vanno nemmeno loro. Quindi questo cosa implica? Implica chiaramente un'educazione dei figli che magari ripercuterà sulle generazioni successive, quindi assolutamente sì, esiste. Grazie per aver tracciato anche questo ritratto molto bello. Questo film lo racconta molto bene, sì, è una realtà piuttosto sconosciuta. Ultima domanda, sogni in portoghese? Solo quando sono particolarmente arrabbiato con mia moglie. Grazie anche per questo dettaglio della tua vita privata, naturalmente. Paolo Manzo, simpaticissimo e preparatissimo giornalista. Oggi abbiamo fatto l'operazione a rovescio. Siamo andati a conoscere un paese grazie al giornalista che lo racconta ed è italiano a un'infinità. Le abbiamo inanellate tutte le testate con cui collabora, da Panorama, Vanity Fair, a Carta Capital in Brasile, ai giornali svizzeri, e ci ha raccontato anche i punti di contatto tra la cultura italiana e brasiliana. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E vediamo se alle 8.33 riusciamo a metterci in contatto. Come annunciato, i satellitari non aiutano, ma dovremmo riuscire a metterci in contatto con il nostro ospite di oggi, il comandante del pattugliatore Cigala Fulgosi, Massimo Tozzi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Comandante, buongiorno. Come abbiamo detto, lei è stato in questi giorni il protagonista di una delle operazioni di salvataggio più terribili, più penose che sia accaduto di dover compiere in mare. Quindi cosa vi siete trovati davanti, lei e i suoi uomini, il giorno di Ferragosto? Era la mattina di Ferragosto, dopo che un nostro elicottero aveva avvistato un barcone di color blu, circa 14 metri, ci siamo avvicinati con l'unità e abbiamo prestato soccorso. Il primo impatto è stato un barcone con oltre 300 uomini, 300 persone, oltre 300 migranti, che avevano lasciato le coste africane qualche ora prima, circa 6 ore prima. Quando siamo intervenuti, consideri che erano le 8 e un quarto del mattino. E abbiamo iniziato subito il recupero del personale. Alla fine avremmo soccorso e recuperato 313 migranti, e fra questi 40 di donne, poi 9 minori. Ecco, con il proseguire delle operazioni di recupero di questi migranti emergevano anche i numeri di quella che poi sarebbe stata una tragedia ben più grande, personale insomma che senza vita, privo di vita nella stiva del barcone. Abbiamo mandato un nostro team subito, operazione in corso, che ha verificato all'interno del barcone un ingente quantitativo di corpi senza vita. Adesso una prima stima non era facilissima fare, ma comunque si vedeva insomma, che erano circa 40 persone prive di vita. E quindi queste immagini drammatiche che si ripetono ormai da settimane e che il 15 agosto si sono concretizzate in questo avvicinamento, poi salvataggio. Con noi c'è il capitano del pattugliatore Massimo Tozzi. Chiaramente avvicinandovi non potevate immaginare che quella fosse una sorta di, diciamo, di bara galleggiante. Quando ormai da quanto si occupa di soccorsi rispetto alle sue solite mansioni, capitano? Io sono comandante dell'unità da circa un anno. Questa unità è già stata anche in precedenza impegnata in operazioni di pattugliamento nel canale Sicilia e ha già svolto altre operazioni di ricerca e soccorso. E voi della Marina Militare siete addestrati per questo tipo di operazioni? Ecco, la salvaguardia della vita in mare è una prerogativa, tra le prerogative principali della Forza Armata. E tutti gli equipaggi sono sia addestrati ma anche ecco, molto molto motivati nell'espletare questo e altri compiti. Quindi voi non siete poi, dica. Capitano, voi non siete scoraggiati da queste continue morti in mare a cui assistete, a cui cioè letteralmente dovete mettere un argine, sembra che il giorno dopo poi si ripetano. Lei dice: io e i miei uomini siamo molto motivati. È molto importante questo che ci sta raccontando. Sì, dottoressa, non solo io e i miei uomini, ma ecco, io penso di poter parlare in generale anche per tutti gli equipaggi della Marina. Sono tutti equipaggi addestrati e motivati, e anche di fronte a certi numeri, a certe immagini che hanno avuto un impatto fortemente emotivo sull'equipaggio, comunque la necessità era, oltre a fare certe riflessioni, comunque la priorità principale in quel momento era effettuare il salvataggio, il recupero, il soccorso del personale presente a bordo dell'unità. Questo è quello che facciamo, che fanno mediamente tutti gli equipaggi impegnati in area. E quando il vostro lavoro è finito e lei, come tutti i suoi uomini immagino, assistete alle polemiche che scattano tra una parte e l'altra, come vi sentite? Ma dottoressa, io faccio questa riflessione in merito alla sua domanda. Questo barcone era partito 6 ore prima del nostro intervento e abbiamo trovato 49 vittime. Ecco, io facevo questa riflessione. 49 vittime in 3 ore, ma pensi se l'unità fosse intervenuta dopo, se grazie alla tempestività di chi ha disposto il nostro invio in zona fossimo arrivati più tardi, probabilmente questo numero, probabilmente, dico, non posso parlare con certezza, sarebbe aumentato. Ecco, per noi, per l'equipaggio, c'è la soddisfazione comunque di aver effettuato l'operazione di salvataggio nel minore, insomma, nel meno tempo possibile. E quindi voi siete orgogliosi e sempre più motivati da quello che riuscite a fare. Non venite, come dire, turbati dalle continue polemiche, da coloro che dicono bisogna rimandarli indietro, l'Italia non può assumersi la responsabilità da sola di tutto il peso dell'immigrazione. Dottoressa, noi in mare abbiamo una missione, sia questo, dicevo, altri equipaggi. E queste polemiche sono probabilmente per noi non voglio sminuirle, ma sono un contorno. Dobbiamo concentrarci su quella che è la nostra missione, e per questa la salvaguardia della vita umana in mare, per me ma anche per lei immagino, per tutti quanti, è un compito preminente. Ed è molto bello quello che ci sta raccontando, capitano. Allora vogliamo proporle qualcosa che in Italia non è ancora arrivato, ma è la testimonianza di uno di un siriano che è arrivato in Belgio, e una volta arrivato là ed essersi portato, grazie al salvataggio della Marina Militare Italiana, figli, figlie e genitori, per cui aveva una grandissima apprensione perché erano imbarcati su uno di questi barconi, ha voluto scrivere a un giornale e raccontare che la Marina Militare Italiana è sempre stata loro vicino, addirittura che proprio dalla Marina Militare Italiana avevano questi atteggiamenti di attenzione, di sensibilità, che hanno fatto sentire a loro, profughi, provati, distrutti e dal mare e dalla paura di perdere i propri cari, la sensazione di avere una importanza che non avevano mai provato nemmeno nel paese dove ormai sono, cioè in Belgio. E racconta questo Dennis che ogni volta che si trovavano ad avere a che fare con la Marina Militare e con i cittadini siciliani avevano come ritorno questo grandissimo calore, per cui addirittura qualcuno disse loro: ogni famiglia siciliana ha membri che se ne sono andati in cerca di un futuro migliore per i nostri figli, quindi noi sappiamo cosa vivono i migranti. Voi non siete una massa anonima, ma genitori, figli e figlie. Dove si trova in questo momento lei, capitano, mentre parla con noi? Pronto? Ecco, mentre sto parlando io mi trovo in... Pronto? Sì, sì. Ecco, probabilmente c'è qualche problema in linea. In questo momento ci troviamo in pattugliamento. Vi trovate? Scusi, provi a ripetere perché è in ritardo di qualche secondo col satellitare. Sì, ci troviamo in pattugliamento. Siamo in pattugliamento nel canale di Sicilia. Allora, noi le auguriamo naturalmente buon lavoro per questo lavoro così importante che lei e i suoi uomini svolgete. Noi lasciamo a questo punto il capitano Tozzi, Massimo Tozzi, capitano della Marina Militare che pattuglia le acque italiane. Grazie per il suo tempo, ed è stato protagonista della missione che il 15 agosto ha salvato 312 sopravvissuti. Era un barcone partito dalla Libia, protagonista di un viaggio che poi si è rivelato più terribile degli altri. L'abbiamo visto, 49 persone stipate nella stiva, presumibilmente perché non avevano i soldi per pagare un viaggio che si fosse svolto in maniera diversa. Sembra che gli scafisti, poi chiaramente tutto verrà accertato, avessero inchiodato nella stiva coloro che non avevano versato la cifra sufficiente per il trasbordo, condannando praticamente a morte 49 persone. E tra poco andremo a Catania, una città particolare dove oggi è lutto cittadino. Salutiamo il sindaco Enzo Bianco. Buongiorno, benvenuto sindaco. Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta. Quindi noi veniamo da lei tra pochissimo, andiamo prima a controllare la situazione del traffico e poi torniamo in Sicilia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E dunque, sindaco, sembra un paese spaccato a seguirlo, come dire, dai titoli dei giornali, delle radio, dei media, degli organi di informazione. Poi quando si parla con i protagonisti, con coloro che l'accoglienza, il salvataggio lo fanno in prima persona, non vogliono nemmeno sentir parlare di polemiche, ha sentito il capitano Tozzi. Lo capisco perfettamente, condivido il suo apprezzamento, il suo approccio serio da militare, da uomo di marina. Fuori dalle polemiche, lui fa il suo dovere, lo fanno con passione ed entusiasmo, lo fanno anche con una carezza umana che mi ha veramente particolarmente toccato. Qualche mese fa, durante una di queste operazioni di salvataggio, ci hanno chiamato il fotografo Fabrizio Villa, che lavora con la Marina Militare, dicendoci che a bordo c'erano 80-90 bambini e che non avevano un giocattolo con cui passare qualche momento o con cui avere un sorriso. Ci hanno chiamato, noi abbiamo fatto una piccola mobilitazione, ho fatto un appello a raccogliere dei giocattoli, mi hanno riempito Palazzo degli Elefanti, li abbiamo portati sulla nave, e devo dire che questi uomini e queste donne della Marina sono assolutamente straordinari, sono un esempio di un paese che spesso guarda alle cose brutte, alle cose negative, e deve non dimenticare di avere dentro delle grandi risorse umane, delle qualità che sono che fanno del nostro popolo un popolo, come dire, insomma, di cui ogni tanto possiamo essere anche orgogliosi. Scusi l'enfasi, ma lo sento profondamente. Sì, e i suoi cittadini, sindaco, sono tutti con lei o anche lei vive la pressione di coloro che dicono adesso basta? No, guardi, tutti con me non sono, non possono essere, è ovvio, qualche maledizione, qualche insulto. Noi abbiamo realizzato al cimitero di Catania, in una zona, diciamo, particolarmente, chiamiamola monumentale, una tomba realizzata dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, tra l'altro utilizzando il nostro materiale, la pietra nera dell'Etna, la pietra bianca di Siracusa, una statua fatta da questi ragazzi, e siccome i morti non hanno un nome, quelli che abbiamo seppellito, abbiamo messo per ogni tomba un verso di una bellissima poesia sui migranti del premio Nobel per la letteratura Soyinka, un africano che qualche anno fa vinse il premio Nobel. E qualcuno, mentre ero lì a mettere dei fiori spontaneamente, mi manda a quel paese, mi dice: ma come, noi pensiamo a loro anziché pensare ai nostri? Ma sono atteggiamenti nella mia città e in generale in Sicilia assolutamente minoritari. Pensi, ieri a Catania, mentre arrivava la nave con 416 persone e naturalmente le 49 salme, c'era la festa di Sant'Agata d'estate, una festa importante, popolarissima, vengono da tutta Italia, tutti gli immigranti siciliani ritornano nella terra. Insomma, io ho insieme con l'arcivescovo ho deciso di non fare sparare i fuochi d'artificio, che naturalmente sono un pezzo essenziale della festa e della tradizione. Al posto dei fuochi d'artificio abbiamo fatto volare silenziosamente 49 palloncini bianchi nel momento in cui Sant'Agata è uscita dalla cattedrale. Devo dire, la compostezza è stata straordinaria. 4 o 5 messaggi su Facebook o da qualche altra parte, il resto, la stragrande maggioranza della mia gente si è comportata con grande dignità, ha capito perfettamente quello che è accaduto e naturalmente noi non abbiamo dimenticato che sino a 30-40 anni fa molti italiani, molti siciliani erano anche loro migranti e che avevano attraversato le pene dell'inferno per raggiungere in qualche modo una speranza. E si vedono infatti spesso volti sorridenti anche sui moli. Quante migliaia di persone sono transitate da Catania quest'anno? Guardi, io, insomma, posso dirle, il numero continua a crescere e io devo fare una previsione che è banale e scontata: fra un anno saremo nella stessa identica emergenza se non partiranno politiche serie a partire dall'Unione Europea nei paesi da cui vengono questi disperati. Naturalmente quelli che partono e scappano da situazioni di guerra come la Siria ci saranno e continueranno ad esserci sempre, e il nostro dovere assolutamente ovviamente è l'accoglienza. Da Catania sono passate soltanto in quest'anno non meno di 35.000-40.000 persone, centinaia di bambini a cui diamo un'assistenza, e tutto questo lo stiamo facendo, guardi, la cosa più bella che voglio dirle è con una straordinaria partecipazione di volontariato. Le faccio un esempio: ieri l'accoglienza di queste persone, sono sempre 420 persone, siamo ad agosto in Sicilia, tra l'altro c'è caldo, una straordinaria partecipazione delle forze di polizia, dell'ordine, della prefettura, della questura, ma molto si sono mobilitati i volontari. L'ospedale Cannizzaro, l'ospedale Garibaldi ci hanno regalato il pranzo e la cena per queste persone. Il coordinatore dei volontari della Protezione Civile doveva lavorare di giorno ieri, si è fatto spostare al turno di notte per essere lì a coordinare gli interventi, per fare quello che, come dire, stiamo cercando di fare in modo il più dignitoso possibile e senza protestare e senza lamentare. Vorrei che qualcuno che sta in qualche regione più ricca della Sicilia tenesse conto che, come dire, insomma, abbiamo un dovere di civiltà da difendere e da onorare. E tra l'altro c'è stato un portavoce della delegazione di 12 avvocati, giuristi e medici britannici che hanno riconosciuto i meriti di Catania e hanno definito questo monumento che ricorda la strage dei migranti e che fa da tomba nel vostro cimitero ai morti senza nome come un esempio grandissimo di civiltà. E lei ha ricevuto anche questi giuristi e quindi cominciano ad arrivare anche i riconoscimenti internazionali per questa particolare attività di accoglienza. E guardi, quello che mi ha fatto più piacere è il pezzo che ha letto lei del giornale belga, mi pare di aver capito. Sì, belga. Quello di quei siriani. Quello è, per noi è il ringraziamento più importante. Io ho incontrato in questi ultimi 2 anni decine e decine di migranti, molti dei siriani li ho voluti conoscere, farmi raccontare la loro storia. Sono storie raccapriccianti, famiglie come quella di chi scriveva quella lettera, che hanno venduto ogni bene, tra l'altro famiglie di professionisti, di commercianti, di imprenditori, di medici, hanno fatto un viaggio terribile, una dalla Siria per arrivare in Libia. Sono stati 5-6 mesi in Libia in condizioni disumane, quello che capita in Libia è qualcosa di semplicemente pazzesco. E poi hanno riconosciuto, come avete sentito, anzitutto alla Marina Militare, ma anche a chi li ha accolti, ai siciliani di averli accolti con generosità, con passione e con entusiasmo. Il fatto che questo finalmente esca fuori per noi è il migliore ringraziamento. Sa, noi andiamo spessissimo sulla stampa internazionale per i fatti di cronaca nera, per la mafia, per i mille problemi della mia terra. Che venga riconosciuto che c'è un popolo come quello italiano e naturalmente in prima linea quello che sta in Sicilia, da Lampedusa a Catania, è qualcosa che mi fa molto molto piacere, il migliore ringraziamento. E non c'è solo la Sicilia, rimanga con noi Sindaco, ma ci spostiamo ora nelle case di qualcuno che ha deciso di accogliere i profughi, in particolare per la giornata di Ferragosto, ma poi sarà questa un'iniziativa che si estenderà. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei Francesca vive ad Agrate Brianza e sì, il giorno di Ferragosto ha aderito a questa iniziativa sì, della Caritas e dell'Osservatorio di Milano. Sì, chi ha ospitato? Io ho ospitato una famiglia senegalese, il padre Adama, la mamma e un bimbo piccolo. E perché l'ha fatto? Ma l'ho fatto perché io ho voluto trasmettere a queste persone un senso di solidarietà, di accoglienza e di calore umano, perché secondo me hanno bisogno di queste sensazioni per poter tirare avanti, insomma, per il loro futuro alquanto incerto. Vivono situazioni terribili durante... Mi ha raccontato che durante il viaggio nel deserto si è dovuto difendere dalle stesse persone che viaggiavano con lui, che erano in viaggio con lui, per evitare di essere derubato. Quindi è un gioco al massacro per loro fino al momento in cui non mettono piede in un centro di accoglienza. Una cosa pazzesca, disumana, insomma. E quando lei ha organizzato, diciamo così, questo pranzo, questa è stato un pranzo o è stata una cena? Aggiungi no, un pranzo, profugo a tavola. Non un pranzo, una cosa molto molto semplice, semplicissima. Ho cucinato delle verdure con la pasta, poi c'era dell'acqua e del tè dolce da bere, una cosa molto molto semplice. Ma è stato l'inizio di un rapporto che durerà? Ma io spero di sì, durerà. Io sono vicina a queste persone, se le posso aiutare lo faccio molto molto volentieri. Spero che durerà, se mai aiuterò qualcun altro e sono pronta ad accogliere altre persone come loro a casa. Ma quando lei sente, ne sono tantissime anche tra i nostri ascoltatori, che in realtà queste cose si fanno per farsi vedere, per mettersi in mostra, no, cosa risponde? No, rispondo. Cioè, per me non è stato così, no, assolutamente. No, io l'ho fatto perché sentivo proprio, avevo questo desiderio di accoglierli, di essere solidale e di trasmettere calore umano, queste sensazioni. Loro, secondo me, hanno bisogno di questa cosa, ma non assolutamente per mettermi in mostra o... No, tant'è che non ha accettato di parlare con noi, ma non ha nemmeno voluto che riportassimo il cognome. No, a questo punto no, dobbiamo andare su molte delle così dei refrain, delle cose che vengono scritte spesso in questi giorni, e la richiesta è quella di aiutarli a casa loro, proprio così, perché accoglierli non farà altro che sommergere questo paese già piegato dalla crisi, in realtà noi dobbiamo aiutarli a casa loro. Padre Giulio Albanese, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Lei è un missionario ed è un giornalista contemporaneamente, collabora con varie testate giornalistiche e ha viaggiato un po' in tutta l'Africa per Radio Vaticana, per il giornale Radio Rai, per Avvenire, per Vita. Adesso non potrei neanche, come dire, scorrere tutto quello che lei ha fatto, ma la soluzione non sarebbe aiutarli, come dicevano, come dicono tanti anche dei messaggi che ci stanno arrivando al 349-238-6666, a casa loro? Veramente sono anni, decenni, che i missionari, i volontari che operano nelle cosiddette periferie del mondo, per usare il linguaggio di Papa Francesco, non fanno altro che ripetere che bisogna investire in maniera perspicace, intelligente, tenendo conto di quelle che sono le logiche della solidarietà e dunque dello sviluppo. Sono anni, decenni che il mondo missionario insiste su questi temi. Il problema di fondo qual è? E purtroppo stiamo facendo l'esatto contrario e la nostra gente non lo sa. Cioè in che senso stiamo facendo l'esatto contrario? Non li stiamo aiutando assolutamente. Beh, a parte quello che diceva poc'anzi il sindaco di Catania, se non vado errato, mi sono collegato un po' in ritardo. Sì, Enzo Bianco era con noi. Sì, non ho potuto seguire tutto l'intervento, però ho sentito una battuta che condivido pienamente. Condivido tutto quello che ha detto, ci mancherebbe, ma mi ha colpito quel riferimento alla soluzione della crisi libica, al fatto che la politica, le cancellerie, la diplomazia internazionale in sostanza non può rimanere con le mani in mano, anche perché la Libia sta davvero implodendo e questo naturalmente anche per quanto concerne il fenomeno migratorio naturalmente genera sofferenze indicibili, pensando soprattutto a questa povera gente, vera e propria carne da macello. Detto questo, però, vi sono anche altre responsabilità che hanno, come dire, una connotazione di tipo economico. Porto un esempio a mio avviso emblematico. Proprio 3-4 settimane fa una autorevole organizzazione non governativa britannica, Global Witness, ha presentato a Bruxelles un dossier, un rapporto che davvero fa venire la pelle d'oca. È uscito fuori che dal 2012, cioè da quando è esplosa la guerra civile nella Repubblica Centroafricana, una guerra che, non dimentichiamo, ha anche una valenza per così dire religiosa, non fosse altro perché si è definita una contrapposizione gradualmente anche tra formazioni jihadiste che vogliono imporre la Sharia con coloro che invece si oppongono a questa visione sì. fondamentalista. Beh, la cosa interessante che è uscita fuori è che ci sono imprese belghe, imprese francesi, imprese tedesche, libanesi e cinesi che operano nel settore del legname, sì. i quali hanno finanziato queste formazioni armate, anche jihadiste, e questo solo e unicamente guardando al proprio interesse, al business del legname. Non a caso il titolo di questo dossier è Legname insanguinato. Questo la dice lunga sul fatto che purtroppo il continente africano continua a essere per certi versi la metafora delle contraddizioni della globalizzazione, ricchezza e povertà, inferno e paradiso. Quindi le opportunità anche da un punto di vista economico sono evidenti, anche per la presenza di commodity, pensiamo certo. alle materie prime, alle fonti energetiche, dall'altra e poi si intrecciano interessi che ovviamente non guardano in faccia a nessuno e... esattamente. E di questo ci dimentichiamo quando ci lamentiamo della povertà che approda sulle nostre coste. E a proposito di povertà, c'è una concentrazione incredibile, secondo gli ultimi rapporti, della povertà nelle mani di pochissime, di una percentuale limitatissima di persone, addirittura di pochissime famiglie. Ma torneremo per completare con lei anche questa analisi geopolitica. Ora diamo la linea al notiziario per gli ultimi aggiornamenti. Ricordo i numeri di telefono 800 24 00 24 e il numero per gli SMS 349 238 6666. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E riprendiamo dunque da questa attualità, che piaccia o meno, sono tantissime le critiche naturalmente verso chi aiuta e chi tende la mano da parte dei nostri ascoltatori. In generale vengono timbrate appunto con questo neologismo di questo segmento del nuovo millennio, buonismo, cioè troppo buonismo nelle parole di chi dice che si può e si deve aiutare. Le morti nel Mediterraneo erano prevedibili, erano inevitabili, e queste tragedie si ripeteranno naturalmente se l'Unione Europea non cambierà il modo di affrontare il problema, e con l'Unione Europea anche le Nazioni Unite. E padre Giulio Albanese, stavamo partendo dall'analisi dei conflitti che lacerano l'Africa per cercare di capire come aiutarli a casa loro, che è un po' lo slogan, no, di questi giorni, di chi si oppone, di chi vorrebbe anche costruire fisicamente, possibilmente sulla scia dell'Ungheria e di altri esempi, un muro. Padre Giulio. Certo, se guardiamo a quello che sta succedendo sul campo, come dicevo prima, si sta verificando l'esatto contrario. Mi viene in mente un altro esempio che è emblematico, riguarda alla questione del PIL africano. Se guardiamo i dati del Fondo Monetario Internazionale, il prodotto interno lordo dell'Africa subsahariana è cresciuto notevolmente in questi ultimi anni. Però purtroppo, ecco, riguardo a questo tema c'è una disinformazione dilagante. Questo per quale motivo? Perché è vero che il PIL cresce soprattutto perché da parte dei creditori internazionali in questi anni ci sono stati notevoli investimenti, aiuti di tipo economico-finanziario. Il problema qual è? Che il PIL dell'Africa è comunque in termini assoluti un PIL ancora molto basso. Tanto per avere un'idea, per scendere al concreto, il prodotto interno lordo del Ghana, che è uno dei paesi che è cresciuto di più in questi anni, in termini assoluti è di circa 50 miliardi di dollari. Si tratta di roba da poco, se uno fa un confronto per esempio con prodotto interno lordo della regione Lombardia, che è di 350 miliardi di dollari. Quindi lei sostiene finché ci saranno queste disparità e queste... Sì, ma il problema sa qual è? È che i creditori internazionali, perché questa è per così dire la vessata e tormentata questa, sì, perché poi è inutile che stiamo a lamentarci che vengono da noi. E ci sono i creditori internazionali, nel caso del Ghana, ma anche di altri paesi africani, i quali hanno detto: siccome in termini assoluti i valori assoluti del PIL sono bassi, per esempio nel caso del Ghana, ma non solo del Ghana, noi chiediamo maggiori garanzie e dunque la privatizzazione di quelli che sono gli asset di questi paesi. Quindi non so, nel caso del Ghana pensiamo alle miniere di minerali preziosi, pensiamo alla rete idrica, non dimentichiamo che il Ghana è un paese che è leader nella produzione di energia elettrica nell'Africa occidentale. La vendita degli asset, o meglio la svendita, determina inevitabilmente un impoverimento di queste nazioni, al punto tale che tra qualche anno gli africani non saranno più padroni dell'aria che respirano, del pane che mangiano e dell'acqua che bevono. Allora, e quindi c'è una contraddizione, lei dice, tra quello che proclamiamo e quello che poi nei fatti facciamo. E questo è il problema, e questo è il dramma. Noi siamo bravissimi, bravissimi a dire aiutiamoli a casa loro. Però il problema di fondo è che non rinunciamo alla tentazione di fare business, di fare affari, senza rispettare per esempio quelle che sono istanze che vengono espresse ad alta voce, a squarciagola, dalla società civile. Penso per esempio all'esigenza di un welfare africano del tutto inesistente. Ecco che allora poi si genera esclusione sociale e la crescente divaricazione tra ricchi e poveri. E questo è un dato inquietante che non riguarda solo l'Africa, ma riguarda in generale lo scenario della globalizzazione. Sarebbe interessante dare un'occhiata a quelli che sono i dati che vengono pubblicati ogni anno nel rapporto di Oxfam. Oxfam è un'autorevole federazione di organizzazioni non governative britanniche. Ebbene, nel rapporto del 2014 Oxfam diceva che ci sono 85 persone, ripeto il numero, 85, nel nostro mondo, che detengono la ricchezza di oltre metà della popolazione mondiale. Ora, questo è blasfemo, questo bisogna dirlo a chiare lettere, è ingiusto. Finché vi sarà questa divaricazione, lei capisce bene, non vi sarà alcuna forma di sviluppo. Qui bisogna capire, anche nell'interesse dell'economia reale, bisogna avere il coraggio di capire che bisogna spalmare la ricchezza. Ma il dato ancora più aberrante, me lo consenta, riguarda il rapporto di quest'anno, pubblicato a gennaio sempre da... Beh, peggio di questo dello 2014 non riesco, no, riusciamo a immaginare. No, siamo riusciti a superare addirittura quel dato. Lei pensi che secondo Oxfam, e sono dati, voglio dire, frutti di studi accurati, credo anche con la London School of Economics, quindi insomma c'è gente di spessore che ci ha lavorato sopra. Bene, entro il gennaio del 2016, quindi tra pochi mesi, l'1% della popolazione mondiale avrà la stessa ricchezza del restante 99%. Sì, questo avverrà a gennaio 2016. Cioè, e a questo punto però, padre Giulio... La politica Giulio, dove sta? Quindi esatto. È spontaneo chiedersi dove stanno i nostri politici, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza? Come si governano questo tipo di fenomeni, che sono fenomeni globali, cioè al di là dell'oggi, andando a guardare poi il non futuro... Lamentiamoci del fenomeno migratorio, perché il fenomeno migratorio trova il suo radicamento in queste ingiustizie che, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, gridano vendetta al cospetto di Dio. Ora, padre Giulio, i nostri ascoltatori però ci chiedono: la povertà riguarda anche gli italiani? Ancora una volta c'è questo modo di porsi per cui, se aiutiamo loro, metteremo in ginocchio il nostro paese. Perché continuare su questa strada? Questa è la domanda, no? Quindi noi vogliamo anche dare la linea, lei ha parlato di economia reale, al distretto, chiamiamolo così, di alcuni dei prodotti dell'agroalimentare più importanti che portano il nome dell'Italia nel mondo: il Made in Italy, il distretto del parmigiano, il distretto del prosciutto crudo, il distretto dell'aceto balsamico, così per semplificare, non me ne voglia naturalmente la popolazione di queste province della regione dell'Emilia Romagna. E con noi c'è l'autore di un libro, si chiama La Padania dell'integrazione, che per anni ha fatto il sindaco, quindi l'amministratore locale, e conosce molto bene questa realtà. Dunque, diceva, cosa è successo nel distretto del Made in Italy? Perché un'altra delle cose che si rimprovera a chi vuole, diciamo così, darsi da fare per gli immigrati è: tolgono lavoro, sottraggono lavoro agli italiani. Lì cos'è successo, per esempio? Parliamo di casi concreti. Raul Dauli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Cosa è successo dalle vostre parti? Ma è successo che i territori interni, le province, i comuni si sono accorti da tempo, insomma, di un mondo che cambia, per cui nel corso degli anni, fine anni 90, i primi anni del 2000, questi luoghi di produzione nel primario, come ha ricordato, ma anche le fabbriche, la meccanica, la meccatronica, l'avvento della tecnologia, è stata accompagnata comunque da una immigrazione forte, prima dal sud dell'Italia, poi dal resto del mondo. Nel mio comune di 12-14 mila abitanti, perché poi sono appunto cresciuto negli ultimi anni, si è passati in 15 anni da 200 immigrati a oltre 2000 immigrati. E questo però vorrei testimoniare che quando la politica è in grado di mettere a progetto un cambiamento, crea comunque valore, perché questa è stata la base. Ma anche valore economico, ha creato maggiore competitività economica, o ha invece depauperato, come alcuni temono, le risorse nelle mani degli italiani? Ma adesso io ho visto ieri, ad esempio, la classifica del Centro Studi del Sole 24 Ore sui borghi felici, no, 2015. Se uno vede la mappa, anche proprio anche di piccoli centri, si vede che la risposta non è solo quindi l'Emilia, ma è una zona diffusa, insomma, dove c'è stato un grande sviluppo economico. Comunque la risposta ai processi di immigrazione, di accoglienza, di integrazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei condomini, ha prodotto oggi comunque, anche a fronte di una crisi, delle riserve, delle capacità di affrontare i cambiamenti, di aprirsi a nuovi mercati di export, per le piccole e medie imprese di affrontare i nuovi mercati, partendo anche dalla base di apporto di lavoro dei propri dipendenti, dei propri soci, perché molte sono cooperative. Quindi io penso che se la politica, se il territorio, se le associazioni riescono a fare sistema, ecco, credo che questo modo di guardare il mondo non solo è un sogno, no, delle persone che collaborano tra di loro, una visione nuova, non costruendo i muri ma costruendo collaborazione, ma è anche un modo intelligente per affrontare il futuro e lo sviluppo dei nostri territori. Ma ci spieghi in pratica, noi sappiamo che dalle vostre parti c'è il primo tempio Sikh in Italia, c'è una presenza indiana molto sostanziosa, dove lavorano queste persone? Sì, gli indiani sono anche appariscenti perché sono spesso molto colorati nelle loro comunicazioni, nella partecipazione, no? Questi turbanti così belli. E quindi, però, voglio dire, sono tante le comunità immigrate. Gli indiani, in particolare quelli del Punjab, che non solo qui in Emilia, ma anche nel Bresciano, in altre zone, sono quelle comunità più integrate, più numerose, anche con un grande senso civico di partecipazione, amano molto, almeno nella mia zona, il settore della produzione del latte, dell'allevamento, che poi è la base anche della produzione del parmigiano reggiano e di altre risorse del territorio. E come ricordato bene, insomma, quando parlavo della politica che si occupa di varie cose, uno dei temi è proprio quello del riconoscimento anche del dialogo religioso, della partecipazione religiosa. Qui si celebrano alcune feste molto partecipate, questo tempio così importante, insomma anche altri, adesso è nato il tempio indù, c'è la comunità cinese che vorrebbe fare il tempio induista, insomma il tempio buddista, ma insomma c'è anche questa vivacità accompagnata anche dalla comunità comunque cristiana, cattolica, perché ci sono stati alcuni anche preti molto, molto illuminati, molto coraggiosi anche ad aprire questi dialoghi nella comunità locale. Quindi al di là delle urla che si sentono, così, che vengono rimbalzate un po' dai titoli di tutti i giornali, in realtà c'è un'Italia che sta integrando e ha integrato. Sì, è un'Italia che sta integrando e integrato e che sta dimostrando che questo atteggiamento è un atteggiamento non solo di disponibilità, non solo che parte dal sentimento individuale dell'accogliere il prossimo, di dare una risposta anche sentimentale a un problema di difficoltà, ma è anche una risposta collettiva che produce ricchezza per il territorio e che è la base sulla quale scommettere per un futuro più avanzato, più tranquillo dei nostri figli. Se pensiamo che l'Europa, se guardiamo la piramide demografica, è impressionante il processo di invecchiamento della popolazione, secondo me la politica ha il compito appunto di aprire, ecco, delle strade di questo tipo piuttosto che chiudersi. Quando la società si è chiusa, no? La novità non è costruire i muri, la storia ha sempre costruito muri. Quando ha smesso di farlo, il progresso c'è stato, quindi non dobbiamo lasciarci prendere pur dalle preoccupazioni, va bene, ma anche dall'intelligenza poi di trasformare la preoccupazione in una risorsa e in un impegno, un senso di responsabilità. Oggi i territori, le associazioni lo stanno facendo. Oggi insomma stiamo andando a vedere quelli che sulla prima pagina dei giornali arrivano un po' meno, però che stanno svolgendo questo lavoro. Abbiamo sentito prima il sindaco di Catania, Enzo Bianco, adesso l'ex sindaco di Novellara, Raul Daoli. Abbiamo sentito alcuni delle famiglie milanesi che hanno aderito all'iniziativa dell'Osservatorio di Milano insieme alla Caritas, aggiungi un profugo a tavola. Sentiamo anche voi. Cristina, buongiorno. Pronto? 800 24 00 24 è il numero telefonico. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Commento, cioè dica cosa vuole aggiungere a questa conversazione su quest'Italia che non si vede ma c'è, insomma. Quello che volevo dire è che mi lascia veramente sconvolta sono i commenti che leggo sui giornali, in rete, i commenti sulla gente che fa del bene e che vengono messo dei commenti, delle cattiverie che veramente non ho parole, rimango veramente male, che io penso, vabbè, ma è mai possibile che una persona fa del bene e poi viene criticato in un modo incredibile per quanto mi riguarda. Il suo riferimento esattamente a chi è, scusi, a quali commenti si riferisce? Sì, allora io mi riferisco al il professore, se non mi sbaglio, nel Veneto, che aveva messo a disposizione la casa sua casa sì, a, sì. a 9, se non mi sbaglio, 9 richiedenti asilo, sì. Sì, e lui avevano fatto poi il calcolo quanti soldi prendeva al mese per ospitare queste persone. E risultava, ovviamente, quando si fa il calcolo così, se non mi sbaglio, 35 euro a persona al giorno. Sì, sì, è stato accusato di sfruttare questi fondi messi a disposizione. Sì, è stato proprio senza neanche, voglio dire, magari senza neanche informarsi, senza fare un controllo un po' più approfondito, viene messo già. Il fatto che viene messo nel giornale, questo signore prende 5.000 euro al mese. A me, dico prima, controlliamo un attimo a che cosa vengono spesi questi soldi. Non mettere così i titoli nel giornale, perché ovviamente qualsiasi persona che legge questo titolo nel giornale dice però 5.000 euro al mese è un facile guadagno. Oh, sì. Ma però, lei è straniera? Sì, io sono straniera, sì. E di dove? Io sono belga. E quindi avete anche voi, naturalmente, siete anche voi alle prese in Belgio con il problema dell'immigrazione. Che punti, che differenze ci sono tra Italia e Belgio? Ma io vedo che ho l'impressione, anche se per il momento abbiamo un governo di destra, però avevo letto gli ultimi giorni i titoli, che ovviamente che mi sembra anche giusto che tutti i profughi che arrivano in Italia poi troveranno un posto anche in altri paesi della Comunità Europea, e vedevo senza commenti, senza cattiveria, vedevo il titolo nel giornale che il ministro stava cercando 1.000 posti di dove poter mettere a dormire questi profughi, e questi sono titoli che passano nel giornale senza nessun commento. Sì, e sono rimasta molto contenta perché nel giornale belga lei dice non c'è questo schierarsi, sì. Questa, come l'ha definita lei, cattiveria. Grazie anche per questa testimonianza. 800 24 00 24. È un'Italia duale quella che stiamo raccontando: da una parte quella che si indigna per gli aiuti e l'accoglienza, e dall'altra quella che invece si dà un gran da fare. Ora noi ci spostiamo proprio a constatare su quest'Italia che, è vero, ha a che fare naturalmente con quelli che sono stati i tagli anche molto dolorosi della crisi. Andiamo a constatare quello che in termini proprio di cure sanitarie addirittura ha comportato negli ultimi 8 anni, secondo l'Istat, dal 2005 al 2013. Ci soffermiamo su un aspetto in particolare, ed è l'aspetto delle visite degli italiani dal dentista, perché questo è particolarmente indicativo e poco raccontato. E stanno sorgendo in alcuni punti in Italia delle situazioni, dei centri sanitari che vengono incontro proprio a queste nuove povertà, e sempre più spesso emerge la necessità, il bisogno di assistere le persone dal punto di vista dell'odontoiatria. E ringraziamo per aver sollevato un velo su questa realtà una giornalista che è con noi questa mattina e racconterà in un libro che si intitola proprio Come siamo cambiati, parlerà proprio della crisi, uscirà ad ottobre. Roberta Carlini, autrice in passato di Economia del Noi, e Roberta Carlini è andata a farsi un giro proprio in mezzo a queste realtà. Buongiorno, benvenuta Roberta. Buongiorno. Abbiamo cambiato tema dall'accoglienza all'immigrazione, ma siamo stati in un tema molto contiguo, perché continuiamo a parlare di bisogni e di povertà. Ecco, una delle cose che gli italiani hanno sacrificato per primo, secondo i dati Istat, sono state le cure ritenute non urgenti dal punto di vista sanitario, per esempio le cure dal dentista. Tu cosa hai osservato nel tuo viaggio, soprattutto a Roma? Ma Diciamo che complessivamente le spese per la sanità sono delle spese abbastanza, che si chiamano rigide, no? È difficile comprimerle, però purtroppo non è stato proprio così, e soprattutto non è così per quelle che si pensa che si possono spostare. Questo è successo negli stessi anni in cui la copertura dell'assistenza pubblica si riduceva, e si è soprattutto scoperto sempre di più un settore che è sempre rimasto fuori dall'assistenza sanitaria pubblica in Italia, cioè quello dell'odontoiatria. E quindi io, facendo un'inchiesta che doveva partire soprattutto dai poveri, cioè i più marginali, quelli che non hanno mai avuto accesso a queste cure, quindi parliamo degli homeless, parliamo di una gran parte dei lavoratori immigrati, e parliamo delle fasce più marginali del paese, e in realtà poi ho scoperto che questa realtà si è allargata molto, e purtroppo lo scopriremo probabilmente con maggior evidenza nei prossimi anni, perché se è vero quello che dice l'Istat, cioè che molte persone hanno rinunciato negli anni scorsi alla visita dal dentista, anche quella di prevenzione, no? Questo comporta mancata prevenzione, la pulizia, il controllo comporta poi l'esplosione di malattie che possono essere molto, molto gravi. Quello che io ho visto facendo un'inchiesta su questo, sui denti proprio, mi volevo partire da una cosa che fosse, che, come dire, è un po' il nostro biglietto da visita, no? Il nostro sorriso, il nostro modo di parlare, e è il fatto che molte persone non hanno accesso a queste cure, comporta che non possono, anche prima di ammalarsi, ecco, non possono vivere bene. E quello che ho trovato girando nei centri, nei alcuni centri dove persone straordinarie, secondo me, fanno quello che il sistema pubblico non fa, cioè forniscono questa assistenza, oppure che il sistema pubblico fa parzialmente, molto parziale. Ho scoperto che questi centri, che erano stati aperti inizialmente soprattutto per rom, immigrati, persone ai margini del sistema, sono sempre più frequentati da famiglie italiane, da ragazzi, da famiglie che hanno problemi con i loro ragazzi, da adulti, da anziani. Un altro dato, non possono permettersi di andare dal dentista. Un altro dato dice che nel complesso, al di là delle cure odontoiatriche, nel complesso la spesa mensile media familiare legata alla sanità in questi anni è scesa circa del 9%. Diciamo che ha colpito questo, sottolinea l'Istat, tutte le fasce di spesa delle famiglie, dalle più povere alle più ricche, ma ovviamente nelle fasce meno abbienti è arrivata veramente all'osso. E Roberta Carlini ha fotografato questa situazione. Noi vogliamo sapere anche da voi all'800 24 00 24 se avete dovuto cambiare in questi anni le vostre abitudini, la frequenza, dal, per esempio, di visita, anche di controllo dal dentista. Bisognerebbe anche capire perché è così importante. Ma noi, Roberta, torniamo da te tra poco, perché da Roma vogliamo spostarci a Genova, dove c'è una situazione praticamente analoga. Ferdinando Biso, dottor Ferdinando Biso, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori, sono contento di essere con voi. Lei è un medico di base? Io sono un medico di base, sì. La nostra associazione Sole Luna opera nel ponente genovese, nel vicino all'aeroporto. Noi siamo nati come ambulatorio di medicina generale, ma durante il nostro lavoro, mio e dei miei colleghi, ci siamo accorti che c'era una forte, fortissima necessità dell'ambulatorio odontoiatrico, perché, come ha detto la giornalista precedentemente in modo chiaro, i denti sono, oltre che un grosso problema sanitario, anche un grosso problema estetico e di presentazione. Un biglietto da visita, importantissimo, perché in questo modo si dà la chance, la possibilità a quello che cerca il lavoro, che vuole presentarsi a un colloquio, di presentarsi in modo dignitoso. Quello che noi pensiamo di fare per tutta questa gente è dare dignità. La dignità è la cosa più importante. Noi lavoriamo anche con molti rom, perché la nostra zona è frequentata da rom. Ebbene, voi dovreste vedere il cambiamento negli occhi di queste persone. che arrivano con aggressività, arrivano con un atteggiamento di difesa. Intanto noi abbiamo capito che bisogna dargli del lei. Molte persone li trattano come persone di serie B, quindi cominciano a dare del tu e non danno quindi la possibilità di avere un rapporto paritario. Ma è vero che oltre a, come diceva lei, fasce marginali e di bassissimo reddito, ormai il 50% delle persone che si rivolge a voi proviene da famiglie che a seguito di un evento molto recente, tipo la perdita di un lavoro, una separazione, non può più avere accesso alle cure? Dice molto bene. Mentre prima i nostri pazienti erano soprattutto gli homeless, come si diceva precedentemente, ora invece sono persone che hanno perso il lavoro, basta che un insegnante sia separato, debba mantenere i figli, debba pagare il mutuo, non ha la possibilità di adire a cure odontoiatriche, diventa un povero. E quindi noi vediamo molte persone molto dignitose in questo caso che si rivolgono al nostro ambulatorio per risolvere il problema odontoiatrico. È vero, come dicevate, che il sistema sanitario nazionale ha il servizio odontoiatrico, ma devono pagare il ticket e queste povere persone non hanno neanche la possibilità di pagare il ticket. Ecco che noi interveniamo su questa fascia di popolazione e, mi lasci dire, interveniamo anche sugli immigrati regolari che con i lavori più umili non possono adire al servizio sanitario nazionale. Che tra l'altro copre solo pochissime cose, una visita di controllo anche con ticket, l'estrazione. Copre la parte conservativa. Devo dire per onestà che, almeno per quanto riguarda la realtà genovese, è stata fatta anche la protesi sociale, così chiamata, per cui la cosiddetta dentiera viene passata a prezzi molto modici. Ma noi siamo al di sotto di questi prezzi già modici. Esatto. Cioè, siete completamente gratuiti. Noi siamo gratis, lavoriamo come volontari tutti, diamo il nostro tempo per queste persone, ma io vorrei puntare l'indice sul rapporto che riusciamo a instaurare, un rapporto umano, che è la cosa più importante. Grazie, rimanga con noi dottore, perché adesso diamo un attimo la linea alla regia e poi sentiamo anche le vostre testimonianze. 800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ecco, tra i mille aspetti all'attualità siamo approdati anche sulla questione denti. Che cosa ha a che fare con la personalità, l'identità e la discriminazione? E mai forse ci si poteva pensare, come in un periodo di crisi, segnala l'Istat, in un periodo di scarso accesso alla sanità in generale, 9% di flessione negli ultimi 4 anni, a risentire di più sono state soprattutto le visite dentistiche. Ma dobbiamo capire, anche grazie a uno di questi dentisti che presta le sue cure gratuitamente a Roma, perché è così importante, cosa può comportare trascurare i denti. Lo chiediamo al dottore Domenico Mazzacuva, che è uno di quei dottori che visita i pazienti a Piazza San Francesco a Ripa, nel camper. Dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Effettivamente io, come medico specialista della ASL RMA, ho concordato con la direzione generale di approntare un camper odontoiatrico che già dal 2012 fornisce prestazioni odontoiatriche gratuite ai bisognosi della comunità Sant'Egidio, della comunità Capodarco, ma anche al caso circondariale di Regina Coeli. E anche da lì osserva una presenza in crescita degli italiani tra gli utenti. Esatto, proprio questo volevo segnalare, cioè che la presenza degli italiani è aumentata dal 2012 ai giorni nostri di circa il 25%, per cui su 10 persone più della metà sono già italiani. Tant'è che siamo stati costretti appunto a dividere i giorni di attività Sant'Egidio, il martedì per gli italiani e il venerdì per per gli immigrati, rom, gli extracomunitari e via dicendo. L'importanza appunto, come diceva lei giustamente prima, di una buona dentatura è fondamentale, oltre perché, come diceva il collega precedentemente di Genova, per il rapporto sociale, per cercare un lavoro, per la vita di relazione ormai di tutti quanti noi altri, ma anche perché nasconde un problema fondamentale che è la masticazione e quindi la digestione, cioè prevenire una buona masticazione, quindi fornire una protesi ben fatta a costo zero praticamente, che noi la forniamo gratuitamente con i fondi regionali che la Regione Lazio, nonostante sia in piano di rientro, ci ha fornito già dal 2012 e che comunque adesso è l'ASL RMA che anticipa, riusciamo a prevenire malattie da parto gastroenterico, per cui evitiamo anche ulteriori costi che andrebbero a ricascare sul sistema sanitario nazionale. Malattie dell'apparato? Gastroenterico. Ecco, questi aspetti che probabilmente a lei sono molto noti, essendo un dentista, sono molto sconosciuti a noi, ai più, insomma, alle persone che non hanno una formazione specifica, per cui ignoravamo che trascurare i denti potesse portare addirittura in alcuni casi a problemi neurologici che ci denunciava la giornalista nel suo articolo Roberta Carlini, hanno portato anche a una semiparesi nel caso di un ragazzo. Esatto, ma infatti la prima digestione da logica viene già in bocca, perché una buona masticazione fa sì che lo stomaco non sia sovraccaricato, quindi questo consente di assimilare meglio gli alimenti, di digerirli meglio, di non avere problemi di fegato, problemi intestinali e via dicendo. Quindi ecco l'importanza, non è solamente un discorso estetico di apparenza, quello ha il suo risvolto. Quando io fornisco una protesi dico sì, io cerco di fare una cosa di esteticamente valido, ma la cosa fondamentale è devo trovare la funzione, quindi devo consentire alla persona che mette in bocca un fatto protesico di masticare correttamente per avere chiaramente un beneficio totale del suo organismo. Lei questo servizio sul camper, dottore, per quanti giorni alla settimana funziona? Lo facciamo dunque il martedì, il giovedì e il venerdì. A Roma, ed è una esigenza così sentita questa che pensate che in Toscana è aumentata l'offerta di cure odontoiatriche proprio grazie ad accordi con i privati a tariffe contenute e cure gratuite per chi guadagna meno di 8.000 euro all'anno, proprio perché la Regione Toscana ha avvertito, ha intercettato questo bisogno e quindi ha inserito nei livelli essenziali di assistenza l'odontoiatria per tutti gli abitanti, non solo per chi ha importanti problemi di salute, con pazienti divisi in base al reddito. Un altro problema sono le dentiere per molte persone anziane a causa dei costi, e quindi ci sarà un ticket bassissimo che renderà più accessibile le cure, le prestazioni odontoiatriche, non solo per questioni estetiche ma per questioni che poi hanno delle ricadute pesanti, come avete sentito dal medico dentista nostro ospite oggi, è volontario sui camper, su tutta la salute del cittadino. Ci sono anche gli ascoltatori. 800 24 00 24, andiamo a Bergamo. Pronto, buongiorno. Dario, benvenuto in trasmissione, dica. Dario, è un bellissimo segnale di linea caduta quello che ci ha portato a Bergamo. Allora ci spostiamo a Genova. Marco Girella, buongiorno, benvenuto. Pronto? Buongiorno. Pronto? Da voi. Marco, senta. Mi sente? Sì, un po' io con sì, qualche pronto? Difficoltà, vediamo se la linea tiene. Quindi lei è stato fino a due giorni fa, tra l'altro, il presidente, da pochi giorni ha passato il testimone a Paola Dalmieri, di questo help center della stazione di Genova Cornigliano. È un osservatorio molto particolare il vostro. Chi viene a chiedere aiuto, a chiedere assistenza e come deve documentare il proprio stato di difficoltà? Cioè arrivano con la dichiarazione dei redditi? Come funziona? No, noi siamo una struttura, come si dice nel gergo dell'assistenza sociale, a bassissima soglia di accesso, anzi vorrei dire a zero soglia di accesso, nel senso che non chiediamo nessuna certificazione che attesti lo stato di indigenza. Noi, come avete già rilevato dall'amico Biso, prestiamo diversi servizi. Oltre al servizio sanitario di base e dentistico, siamo anche una mensa serale aperta 6 giorni su 7 per tutto l'anno, Natale, Capodanno compreso, eccetera. abbiamo 60 posti in sala da pranzo e tutte le sere noi serviamo 60 pasti, per un totale di circa tra i 18.000 e i 20.000 pasti anno. E anche in questo caso registrate un aumento degli italiani tra i fruitori della mensa? Certamente, ed è significativo l'evoluzione. Dobbiamo, Marco, dobbiamo interromperla, ci spiace, ci sarebbe piaciuto tanto sentire anche questa voce, ma la qualità dell'audio non rende possibile continuare questo collegamento. Proviamo a ricomporre il numero e vediamo se sarà possibile collegarsi con lei. Io tornerei a Roberta Carlini, che ha dato questa visione d'insieme della, diciamo così, medicina per le fasce che ormai sono cadute in povertà in Italia. E la prima cosa che si vede, Roberta, tu dici, sono i denti, nel senso che i denti sono un biglietto da visita, e con questa connotazione hai svolto il tuo percorso. Ora, chi hai incontrato in questa inchiesta, in questa indagine che ti ha portato un po' a vedere come si può risolvere questo problema? Ma dunque, le persone che ho incontrato sono per gran parte persone molto, oltre allo stesso dottor Mazzacuba che è qui con noi, altri medici e operatori molto simili a quelli che abbiamo sentito, cioè in questo paese c'è una straordinaria mobilitazione di volontariato, di persone che si danno da fare quando riempiendo i buchi, quando le cose mancano, no? E quindi questo è positivo, ma non dovrebbe essere così, perché abbiamo comunque un servizio sanitario, un sistema sanitario che per quanto da noi molto spesso denigrato, risulta uno dei migliori. Uno dei migliori del nostro mondo e del mondo sviluppato. Però io starei quasi tentata di usare il passato, risultava tu dici, cioè quello che hai visto, insomma. Di cui mi sono accorta un po' con terrore è che c'è una fascia che resta fuori. Che resta fuori perché è vero che il sistema sanitario garantisce di più, che ne so, del sistema sanitario americano, certamente, però non è vero più tanto che sia universale. C'è il ticket, ci sono i ticket per le prestazioni, ci sono molti, ci hanno parlato delle cure odontoiatriche. L'altra cosa importantissima è che la realtà che hanno detto i nostri interlocutori sono realtà, per esempio Genova, il nord, e in gran parte d'Italia non è la così. Toscana, abbiamo citato. La Toscana, no? Anche quel po' di odontoiatria pubblica che c'è, presumo che si fermi ben sopra il centro d'Italia, cioè ci sono zone in cui andare dal dentista pubblico è pressoché impossibile e abbiamo visto che comunque andare dal dentista tra virgolette pubblico è troppo costoso per molte fasce. E quello che mi colpisce è anche la differenza, cioè se tu nasci in Toscana o nasci in Calabria hai due sanità diverse. Questo non era accettabile prima, ma è ancora più inaccettabile adesso. Comunque in tutta Italia, Roberta, in tutta Italia in realtà, secondo i dati, sai quanti sono gli italiani in generale che si avvalgono dei servizi convenzionati dell'ASL in materia odontoiatrica? L'8%, sì, cioè quasi nullo. Copre una minima parte e appunto molto probabilmente anche concentrata geograficamente. Però ecco, in queste indagini si vede anche un'altra questione che sta emergendo molto, abbiamo parlato adesso dei denti, un'altra questione è quella dell'alimentazione, che è un'altra malattia legata alla povertà e l'aumento della obesità, come obesità dei poveri, non è una notizia di oggi, ma insomma girando poi per questi centri dove c'è medicina dei volontari, dove si assistono quelli che hanno più bisogno, girando per questi centri si vede che questo è un tema molto sentito. Una dottoressa del centro di medicina sociale di Torbella Monaca, un quartiere di Roma, mi ha detto noi distribuiamo dei pacchi alimentari, ma soprattutto, cioè per due motivi, pacchi alimentari perché ci sono famiglie che hanno bisogno, ma anche per dare un'educazione alimentare. Quindi per fornire alimenti che siano nutritivi e non pieni di zuccheri. Mangiando le lenticchie che non risparmiare mangiando, che ne so, il snack al cioccolato. Ecco. Sì. E ci segnalano anche un'altra tendenza i nostri ascoltatori, Roberta, ed è quella dell'impossibilità di avvalersi dei servizi convenzionati della ASL, perché a volte prima di tutto ci si accorge di avere un'emergenza quando magari parte un dolore per cui c'è bisogno di intervenire, e ci segnalano qualcuno che ha telefonato per fare una prima visita e l'ha ottenuta però a luglio del 2016. Uh-huh. Non ci specifica però in quale regione questo è accaduto, quindi non riusciamo a capire di quale realtà si parli. Specificate da quale città, da quale regione, da quale zona scrivete al 349, questo è il numero di SMS, 238-6666, ancora una volta 800-24-00-24. Abbiamo ripristinato la linea con Bergamo, ci andiamo tra poco, prima però è necessario controllare il traffico. Come va? Molti di voi stanno guidando le strade d'Italia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Mi consolavo scrivendo. Non potevo restare a Willow Glen, né sfuggire all'orrore dei miei denti. Salve. Sono Janet Frame. John Forrest mi ha scritto di lei. Può aiutarmi per i miei denti? I suoi denti? Mi spiace, ma temo che dovrà farseli togliere. Mi accompagnerebbe? Beh, sì, certo, potrei. Dopo che avrà fatto vedere i suoi denti, vorrei che andassi all'ospedale Sunnyside. Hanno una nuova cura che pare sia ottima. Ma è curabile? Sì, con questo trattamento sì, credo sia curabile. Questo è un regalo della regia, ci ha proposto Un angelo alla mia tavola, praticamente un breve estratto da un film in cui, come avete sentito, la scrittrice neozelandese, si chiama Jane Frame, racconta la sua infanzia, la sua vita, ed era molto povera e quando ha avuto la possibilità di andare ad insegnare era un grande imbarazzo, era molto importante sistemarsi i denti perché non le permettevano, diciamo così, di affrontare una situazione pubblica come quella data dalla cattedra. Abbiamo ripristinato la linea con Bergamo. Dario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica brevemente, siamo in conclusione. Sì, sì. No, noi siamo un centro, un ente religioso che si è occupato, diciamo, di odontoiatria, diciamo, sociale. Il problema è che noi siamo un centro convenzionato e della regione Lombardia, quindi, in cui ci sono dei tagli alla sanità e quindi abbiamo fatto, diciamo, ci siamo... Noi medici dobbiamo pagare, quindi abbiamo fatto un accordo con medici, fornitori, dicendo, per pagarli il meno possibile e poter proporre delle tariffe basse, sì. Perché la gente ormai non è in grado di affrontare la spesa come era una volta dal dentista, allora il problema è che avendo un budget limitato dobbiamo anche fare una selezione molto particolare, magari il disabile lo facciamo completamente gratis e purtroppo magari il bambino che ha 5 denti cariati, diciamo alla mamma la prossima volta glieli lavi meglio, gliene sistemiamo due, purtroppo glieli dobbiamo far pagare perché dobbiamo, diciamo, distribuire il budget che abbiamo su questi poveri ormai pazienti che vengono da ogni parte del mondo e paradossalmente sono più preparati gli immigrati che non gli italiani. Preparati gli italiani in che senso? Preparati su quelli che possono essere i vantaggi dell'odontoiatria, diciamo, che offre il Servizio Sanitario Nazionale. Loro sanno cosa gli è pagato, cosa non gli è pagato. L'italiano è un neofita, arriva per la prima volta dopo anni e anni, magari andrà dal dentista a pagare 2 o 3 volte quello che paga da noi e è ignaro di poter usufruire di alcune tariffe agevolate, diciamo, o comunque a zero. Grazie, grazie, perché è molto importante quello che ci ha detto il nostro ascoltatore da Bergamo. Infatti ci sono delle tariffe dei dentisti convenzionati OSL che tengono conto delle fasce di reddito del cliente, ma tanti italiani, tantissimi, non siamo a conoscenza di questo, perché anche l'età e la patologia danno diritto a delle esenzioni. Prima di tutto, i minori di 6 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151 euro. I minori di 14 anni, indipendentemente dalla posizione reddituale, possono, se non essere esenti, e pagare esclusivamente il ticket. I cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito non superiore sempre a questi 36.151 euro e i lavoratori in mobilità. Ora, sono cose che si ignorano, tant'è che solo l'8% degli italiani si avvale dei servizi convenzionati ASL. Contemporaneamente poi c'è la situazione segnalata dall'ascoltatore: chiami per la prima visita, hai l'appuntamento il 16 luglio, certo, il 16 luglio, il luglio del 2016, da qui a un anno, certo questo non ti invoglia a servirti del Servizio Sanitario Nazionale. Luigi, pronto, buongiorno. Io sono uno specialista in odontoiatria, a San Benedetto del Tronto volevo segnalare, c'è una fantastica reparto di odontoiatria presso la Caritas, dove praticamente funziona, dove ci sono volontari, dove quando non è possibile operare lì, vengono mandati negli studi privati e quando arrivano da noi volontari li curiamo gratuitamente. Gratuitamente da voi dunque? Sì. E quante persone riuscite, che tipo si di... riesce nel turnover del lavoro, sì, quotidiano, si riesce a inserire una, due, tre persone ogni tanto, si riesce, ci sono tanti dentisti che aderiscono a questo e praticamente si assolve un compito importante. Ma quello che voglio dire è che la parola prevenzione, oddio, un'altra volta con la prevenzione, no. Quando arriva qualunque persona nel mio studio, dopo la prima visita viene impostato correttamente a gestire la propria salute. Ora, se noi non sappiamo che, ad esempio, un bambino che respira a bocca aperta è candidato a una malocclusione che costa dal punto di vista ortodontico e riusciamo a intercettare la deglutizione, la respirazione, noi facciamo una prevenzione importantissima. Se questo lo aumenta di numero, vede che succede a livello sociale. Se insegni, cioè, a una persona... Questo dove andrebbe insegnato, secondo lei, nelle scuole? A livello sociale, come fatto culturale. A parte che c'è un sacco di odontoiatri giovani che lo possono fare, devono andare nelle scuole, si fa le lezioni alle mamme e insegnare a una mamma che un bambino che respira a bocca aperta è un candidato a un problema ortodontico importante e può avere una deformazione del viso. Mentre... Quindi se fossimo più consapevoli di tutto questo, poi spenderemmo anche meno dal dentista e non arriveremmo. Ma se io vado in una comunità dove trovi bambini sani e il nostro Signore i bambini ce li consegna sani, sì, che i denti nascono sani, io so come farli crescere sani tutta la vita, allontanando la malattia. Se questa persona, che posso essere io, diventa uno Stato, diventa una società, diventa un gruppo di persone che ragionano, questa malattia non si divulga, perché i bambini capiscono che non possono andare a dormire senza aver lavato bene i denti, e purtroppo i denti non si sanno lavare bene né i genitori, né i maestri e né nessuno. Quindi, e questo è discorso molto grave, grazie. Grazie, naturalmente prendiamo queste parole di questo odontoiatra, che tra l'altro fa anche il volontario, come molto importanti, perché poi la prevenzione ha dei costi, delle ricadute. E abbiamo sentito sempre di più, dottor Biso, ritorno a Genova, come chi ci chiama, chi fa il volontario, chi offre questi servizi sia in realtà spesso inserito in circuiti della Caritas o di Sant'Egidio o religiosi. Sembra proprio che ci sia una carenza di quella che dovrebbe essere un servizio fornito dallo Stato, poi ben venga chi riempie questi vuoti, ma perché c'è questa disattenzione? Ah, sarebbe bellissimo riuscire a rispondere a questa domanda, ma volevo aggiungere, per quanto riguarda, per dare una mano in più al collega di Roma, che oltre alle patologie gastriche possono intervenire anche le patologie cardiache, ci possono essere dei grossi problemi cardiaci per un'infezione odontoiatrica a un dente. Se tu hai un granuloma e lo trascuri, potrebbero crearsi dei grossi problemi cardiaci e uno poi si ritrova una cardiopatia e non sa perché possa essere successo. oppure dei problemi renali. Quindi, come si vede, anche curare i denti non solo previene patologie dell'apparato gastroenterico, ma soprattutto patologie dell'apparato cardiaco e anche renale. Lei ha lavorato in tutto il mondo. Che voto dà la sanità italiana? Molto alto, molto alto. Anche se abbiamo questi scivoli, così chiamati, io quando vado a girare, non lo so, per l'America Latina, per l'Africa o in altri posti, quando torno a casa ringrazio il nostro sistema sanitario nazionale. Nonostante abbia dovuto creare questo servizio di volontari insieme a Marco Girella, insieme all'Help Center, alla stazione di Genova, e per sostituire, per intervenire laddove il sistema sanitario pubblico non arriva. E un osservatorio da cui, come avete segnalato nel corso di tutta questa trasmissione, sempre più spesso vedete di fatto i cambiamenti sociali avvenire di fronte ai vostri, nei vostri studi di dentista, perché sempre di più sono gli italiani che non possono permettersi nemmeno di pagare il ticket per la minima assistenza ambulatoriale, poi vengono a ingrossare le file di questi servizi che stanno fiorendo un po' su tutto il territorio italiano. Abbiamo segnalato quello di Genova, quello di Roma, ci hanno chiamato da San Benedetto del Tronto, da Bergamo, dalla Toscana, proprio a indicazione di un problema che c'è e si sta diffondendo sempre di più. L'importanza dei denti, come abbiamo sentito anche da Roberta Carlini, una scrittrice e giornalista che collabora con l'Espresso e sta per scrivere un libro su come ci ha cambiato la crisi, proprio per la terza, e che ha molto a che fare spesso con l'identità e la dignità delle persone. Noi ci fermiamo per oggi 9.58, ringraziamo Laura Faggin per questa puntata di Spunti di Vista, Silvi Boccaletti in redazione insieme a Luca Cremonese, Massimiliano Lollis, e in regia Peter Bescapè. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani, l'augurio di un'ottima giornata.